Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, noi siamo pronti, sono le 11.08, abbiamo Pietro Lacorte in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, come sempre il nostro sommario, andiamo! Sole, luce, mare e vento, amici o nemici dei nostri occhi? Zampe di gallina? No, grazie. Un minuto che vale una vita. Il sole bacia i belli, non oggi, qua a Milano ci sarebbe bisogno proprio dell'ombrello, ma noi non cediamo alle sue lusinghe, o meglio facciamolo, ma adeguatamente protetti. Una raccomandazione che vale per la nostra pelle, ma anche e soprattutto per i nostri occhi, perché i tessuti oculari sono molto sensibili all'effetto dei raggi ultravioletti che possono provocare problemi nel breve e nel lungo periodo. Allora, perché rischiare, no? Quindi, parola d'ordine, protezione. Devo aggiungerne però anche subito una seconda, qualità. Impareremo a scegliere le lenti giuste, quelle che servono davvero a proteggere i nostri occhi e anche quelli dei nostri bambini. E voglio subito testare la vostra preparazione in materia di occhiali da sole con una domanda: quali sono i gradi di potere filtrante delle lenti? Voi rispondete, inviate una mail a esserebenessere@radio24.it. Il primo di voi che invierà la risposta giusta riceverà a casa il libro del nostro consiglio di lettura. Le ricordo allora, quali sono i gradi di potere filtrante delle lenti? Questa è la domanda di oggi. Però oggi vogliamo anche parlare di tutti quei piccoli e fastidiosi disturbi che si presentano proprio più frequentemente in estate. Quindi, anche se voi gli occhiali da sole li portate, ma per esperienza sapete che in estate, che so, siete più soggetti al rossore, lacrimazioni, congiuntivite, se i vostri occhi, insomma, in estate si lamentano di più per il vento, la luce, i bagni in mare, in piscina, dopo una gita in montagna, chiamateci 824 0024. Ma desidero anche essere chiamata da chi porta le lenti a contatto e da chi è fresco di intervento, penso alla cataratta ma anche a interventi di chirurgia refrattiva. Allora, intanto che voi vi attivate, vi ho preso tutti insomma, io vi presento il nostro ospite, il professor Francesco Bandello, direttore della clinica oculistica dell'Università Vita Salute, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti. Professore, oggi noi parliamo di sole eccetera, invece qua a Milano niente, è buio. Niente, manco parlarne. Vabbè, magari lo facciamo tornare. Ma lei mi faccia subito capire la sua posizione nei confronti del sole, perché lei sa bene che negli ultimi anni, per veicolare messaggi di prevenzione e protezione assolutamente corretti, abbiamo corso un po', insomma, il rischio di fare terrorismo e abbiamo sottolineato più i danni che i benefici dell'esposizione solare. Questo è capitato per la pelle. Sì. La medicina va un po' a mode, ahimè, e anche noi medici poi ci lasciamo un po' trasportare dalle mode e dagli argomenti che sono di particolare attualità. Io ho vissuto da bambino il periodo in cui venivamo portati al sole, si riteneva che latte e radiazioni solari fossero fondamentali per avere uno sviluppo corporeo adeguato. E il bambino che non veniva esposto al sole rischiava di restare gracile, come probabilmente ricorderà chi ha almeno la mia età. Ma lei, scusi, che io non la vedo come un pezzo d'uomo? Beh, un gran bel pezzo d'uomo. Ah, direi. Va bene, no, vede che allora il sole... No, ha fatto degli risultati magnifici, ha sortito delle cose magnifiche. Fantastico. Viceversa, poi dopo, a un certo punto, ci si è resi conto, giustamente, che le radiazioni solari possono essere dannose e ci si è resi conto che soprattutto, come sempre poi, l'eccesso di radiazioni solari poteva essere dannoso e poteva essere responsabile anche di gravissime conseguenze. Ed è questo il periodo che stiamo vivendo, un periodo in cui si sottolineano tanto, come giustamente diceva lei, quelli che sono gli effetti collaterali dannosi. Forse però stiamo un po' eccedendo, bisogna un po' così dare rimettere la un po' misura. La palla al centro. Sì, io direi di sì, forse stiamo anche eccedendo in questa direzione. Senta professore, noi la pelle quando ci mettiamo al sole produce la melanina, noi siamo molto contenti perché ci abbronziamo, abbiamo quel bel colorito che fa salute, però l'abbronzatura è a tutti gli effetti un meccanismo naturale di difesa della nostra pelle. Gli occhi come si comportano? Hanno dei filtri, dei meccanismi di protezione? Fanno qualcosa oppure... Gli occhi si comportano nello stesso identico modo. Noi abbiamo all'interno dell'occhio varie membrane, su cui adesso è inutile soffermarsi più di tanto. Comunque abbiamo anche dei pigmenti che hanno la stessa funzione che ha la melanina come pigmento cutaneo, e la quantità di pigmento che noi abbiamo sulla pelle più o meno corrisponde alla quantità di pigmento che esiste a livello del fondo oculare, che noi oculisti vediamo quando guardiamo dentro il fondo, guardiamo dentro all'occhio del paziente. E ovviamente quanto più pigmento esiste a livello cutaneo, tanto più ne esiste a livello retinico, e tanto più il paziente è protetto dall'azione dannosa delle radiazioni, perché questo filtro costituito dal pigmento è in grado di proteggere i nostri occhi. Il paziente molto chiaro di carnagione, con poco pigmento, con gli occhi azzurri, è sicuramente un paziente che alla luce ha maggiore probabilità di avere disturbi e intolleranza. Chi invece è molto pigmentato ha maggiore probabilità di sopportare l'azione delle radiazioni senza particolari problemi. Senta professore, sempre tornando al nostro parallelo con la pelle, alcune malattie della pelle al sole migliorano, no? Sì. Si attenuano. Succede qualcosa di simile anche per i disturbi o le malattie oculari, per i nostri occhi in generale, per la vista? No, linea di massima, malattie che vengano curate con le radiazioni solari non ce ne sono. C'è solo una cosa che mi viene in mente adesso, ma è proprio un aneddoto, che la possibile utilità della luce quale terapia delle malattie oculari, ma quella è la luce estremamente concentrata, è quella della radiazione laser, e che come sa ha avuto nel campo oculistico le prime applicazioni mediche, fu scoperta da un italiano che si rese conto che focalizzando con delle lenti adeguate l'azione delle radiazioni solari su di un punto, si poteva bruciare il tessuto. Quindi questo fu fatto facendo concentrare la luce solare sul fondo oculare di un paziente, e in questo modo si cominciarono ad ottenere i primi risultati terapeutici, cioè l'impiego della luce in campo oftalmico. E questa cosa fu inizialmente adoperata per curare dei tumori intraoculari. Poi dopo tutto ciò diede l'astura a una linea di ricerca che poi ha portato alla messa a punto dell'impiego della radiazione corrente, cioè della radiazione laser, per la terapia delle malattie oculari, malattie del fondo oculare in generale. Senta, comunque, professor Bandello, io intanto grazie, perché si imparano sempre cose nuove. Lei ha detto che chi ha gli occhi chiari, proprio succede come chi ha la carnagione chiara, rischia un po' di più, è maggiormente sensibile alla luce. Quindi, insomma, gli occhi chiari, lo sappiamo, sono più delicati, è vero, ma quanto sono belli! E quanto sono belli gli occhi dell'ospite che è in linea con me, a guardarli ci si perde. Non sto esagerando, perché abbiamo in linea Serena Autieri. Ciao Serena. Buongiorno, grazie. Grazie a te. Buongiorno Serena. A tutti. Senti, dire che sono azzurri è un po' riduttivo. Di che colore sono i tuoi occhi? In realtà sono verdi. Mm. Sono verdi e sono molto delicati, ahimè, sì, specialmente con questa stagione al mare. Io poi da napoletana, ovviamente chi non ama il mare, ma io ancora di più, e quindi non posso che passare tutta la mia estate, quando non lavoro, al mare, e soffro tantissimo perché il riverbero dell'acqua riflessa, cioè del sole riflesso nell'acqua, insomma, quindi devo sempre proteggere con gli occhiali da sole, che alla fine diventano un accessorio, un po' quelli grandi, un po' di moda, ma in realtà non sono, per me non sono tanto per la moda, ma tanto perché mi devo proteggere totalmente, anche lateralmente, i miei occhi, e sicuramente con una lente che protegga dai raggi UV. Professor Bandella, coprire gli occhi di Serena con un paio di occhiali da sole piange il cuore. Però sì, io anche mi posso offrire per verificare come vanno le cose dopo l'estate. Se Allora Serena, tu lo sai che il professore, quando gli ho detto abbiamo anche Serena Autieri, era quasi lì che diceva vengo, e io ecco, io ho detto no, ormai no, e l'ho punito così. Però vedi che si è offerto nuovamente per fare una visita dopo l'estate. Volentieri, volentieri. volentieri, anche perché in questo periodo spesso chiudo, stringo gli occhi, allora mi stava venendo anche un po' il dubbio, dico, non è che ho qualche problemino con la vista, visto che io ho sempre avuto una vista perfetta, a questo punto approfitterò della sua disponibilità per fare una visita dopo l'estate. Professor Bandello, è svenuto? No, guardi, svenuto no, no. Però? Però aspetto. Perché noi dobbiamo stare insieme fino a mezzogiorno. Serena torna a lavorare veloce perché stai lavorando parecchio. E sì. A che cosa stai lavorando, Serena, tra l'altro? Sì, per noi l'estate è sempre piena di, insomma, intensa per i film, per il cinema, per le fiction. Ho appena finito di girare un film, il nuovo film di Fausto Brizzi, che andrà nelle sale cinematografiche a febbraio, mentre l'altro a ottobre, perché sono due film che lui ha girato insieme, che si chiamano Maschi contro Femmine e Femmine contro Maschi. Io faccio parte di Femmine contro Maschi, dove il sesso femminile è più forte. Brava! E l'altra cosa che sto ultimando, anche il doppiaggio, è una commedia che andrà in onda su Canale 5 a novembre insieme ad Enrico Brignano e Marco Todisco. È una commedia, insomma, un giallo e poi con una storia d'amore anche un po' così romantica, tenera. Senti, ti stai divertendo, quindi si sente da sì. Tanto, sì, si sente. Senti, tra l'altro, tu ti diverti ad andare anche in moto? Quello sì, è una passione che ho scoperto in questi ultimi anni, devo dire che mi diverte e l'ho rispolverata anche adesso in questo ruolo, appunto, di questa serie con Brignano, dove interpreto questa una barista che scarrozza in motocicletta tutto il tempo, anche quando non lavora. Ed è divertentissimo, solo che devo proteggermi ancora di più io con gli occhiali. Allora, adesso ti passo il tuo oculista, ormai il tuo oculista preferito, il professor Bandello. Professore, Serena va anche in moto con quegli occhi. Sì, è una delle cose che possono essere causa di problemi, che ovviamente sono legati al fatto che dei frammenti, dei corpuscoli possono colpire l'occhio, eventualmente non protetto adeguatamente da occhiali o dal casco, e in questo modo produrre delle lesioni traumatiche della parte esposta dell'occhio, che poi è la congiuntiva e la cornea sostanzialmente. In questi casi è importante ovviamente rivolgersi allo specialista, che si deve porre il problema di eliminare l'eventuale corpo estraneo che si sia incuneato o conficcato nei tessuti superficiali dell'occhio, ed eventualmente poi curare con un antibiotico allo scopo di prevenire eventuali infezioni. E la cosa fondamentale è, laddove entriamo poi in argomento, laddove ci siano anche delle lenti a contatto da parte del paziente che vengono utilizzate, eliminare le lenti a contatto, cioè non utilizzare le lenti a contatto quando si verificano cose di questo tipo, perché quel corpo estraneo potrebbe anche incunearsi al di sotto della lente a contatto e quindi poi fare danni. Dare dei danni che possono diventare importanti. Sì. Serena, dobbiamo sottovalutare i nostri occhi, perché spesso non li curiamo abbastanza, quindi bisogna anzi essere molto più attenti, credo, specialmente in questa stagione. È sicuramente vero, sì. Grazie Serena per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie a voi, grazie professore, a presto. Grazie. Arrivederci. Professor Bandello, si ripigli, perché no, io prima di continuare vorrei rassicurare Alessandra, se ci sta sentendo, perché non vorrei fare la parte di quello che ci sta provando. Io non. Ma assolutamente, perché certo, una battuta. Alessandra, sia tranquilla. 800-24-0024, anche assolutamente. Giuliana ci chiama da Genova, buongiorno. Buongiorno. Allora, stia tranquillo professore, perché sono vecchia e brutta, quindi la sua signora non corre nessuno. No, ma perché noi abbiamo detto, io gli ho chiesto, ma com'è lei, il sole, il latte, un pezzo d'uomo, poi è arrivata Serena Autieri, poi adesso è cosa, gli affidiamo i nostri occhi, lui è felicemente sposato e innamorato. Giuliana, allora. È arrivata la Giuliana, che è comunissima, quindi non c'è nessun tipo di problema. Allora, io sono appena stata operata di cataratta e allora da una parte ho un occhio cioè un cristallino nuovo, quindi un occhio che vede quasi perfettamente bene, che poi appunto tra un mese o due sarà ulteriormente corretto. Sì. Nell'altro occhio ho ancora una miopia da meno 14, meno 12, però la correggo con una lente a contatto. Mm. Adesso volevo sapere se, appunto, dato che mi dà abbastanza fastidio il sole, se è più corretto mettere un occhiale da sole con che tipo di lente, se di plastica, di vetro, di che colore e di che intensità. Professor Bandello. Allora, il paziente che è stato operato di cataratta prova spessissimo la sensazione di un eccesso di luce, perché si era abituato ad avere un filtro, la cataratta appunto, la lente è diventata opaca, per anni, e quindi poi quando la si toglie, la si sostituisce con un cristallino trasparente, un cristallino artificiale trasparente, che in genere è trattato in modo tale da filtrare le radiazioni ultraviolette, ma comunque non è mai efficiente da questo punto di vista come il cristallino naturale, e il paziente sperimenta questa sensazione di abbagliamento, di fastidio alla luce che è tipica dell'operato di cataratta. Non passa più, professore, o sì? In genere poi piano piano ci si abitua. Un po' come quando laviamo i vetri, no? Sicuramente, ecco, poi dopo un po' piano piano ci si abitua, ecco. E si torna ad avere una sensazione di normalità. Sensazione di normalità che è più difficile però raggiungere quando uno dei due occhi è già stato operato e l'altro no, perché la differenza tra i due occhi, in questo caso anche la differenza di correzione tra i due occhi, sì, perché uno è rimasto miope e l'altro invece non è più miope, fa sì che i due occhi non siano perfettamente uguali, e il cervello può addirittura avere delle difficoltà a sovrapporre l'immagine che arriva da un occhio con quella che arriva da un altro per dare la sensazione di un'unica della visione di un unico oggetto. Sì. Va sicuramente bene che la signora ricorra a dei filtri solari che siano in grado di filtrare bene le radiazioni ultraviolette e che aiutino a proteggere l'occhio operato dall'azione delle radiazioni ultraviolette, appunto. Non ho particolari raccomandazioni da fare, certo, per quanto riguarda il colore, il modello o altre caratteristiche di questo tipo. Ciò che va raccomandato è che si tratti di un occhiale di buona qualità, che abbia una qualità, diciamo, di produzione adeguata e che funga realmente da filtro delle radiazioni ultraviolette. Dico solo una cosa a completamento di questo discorso: il filtro delle radiazioni ultraviolette può essere anche ottenuto con una lente trasparente, non c'è una corrispondenza tra la capacità di filtrare e il colore degli occhiali da sole, sì, per cui paradossalmente uno può anche avere degli occhiali trasparenti che sono in grado di filtrare adeguatamente le radiazioni dannose. Mi pare di aver risposto. Adesso sì, non ricordo, sì, se c'erano altre. No, non c'erano altre domande, professore. Invece ci sono i disturbi che molti di noi avvertono proprio quando in estate, quando no, la luce è più forte. Serena ci raccontava: proprio in questo periodo strizzo spesso gli occhi. E uno dice: bene, uno si mette gli occhiali da sole o una visierina, passi all'ombra. Ma questo bisogno di ammiccare, di strizzare gli occhi, può essere un sintomo che ci racconta qualche cosa, una specie di segnale di SOS che lanciano i nostri occhi? Perché non so, molti ascoltatori me lo stanno scrivendo proprio sul passo di Serena Autieri. Dunque, l'estate, diciamo, questo periodo dell'anno è un periodo in cui le alte temperature, le abitudini di vita, le situazioni ambientali in cui ci ritroviamo a vivere possono rendere più frequenti questo tipo di disturbi, sia perché la temperatura aumenta, quindi c'è un'evaporazione delle nostre lacrime che è aumentata rispetto al normale, sia perché viviamo in ambienti sempre più spesso condizionati e quindi con una percentuale di umidità che è più bassa rispetto a quella abituale. Basti pensare per esempio a quando in macchina facciamo andare a tutta manetta l'aria condizionata, eventualmente indirizzata anche verso i nostri occhi, verso il nostro volto, per avere immediatamente la sensazione di refrigerio. Ebbene, noi in quel momento stiamo creando i presupposti per far evaporare in modo eccessivo le lacrime, e quindi la sensazione di secchezza oculare ne è poi la inevitabile conseguenza, non si può sperare di non avvertirla. Così come il fatto di stare al sole, di stare in ambienti ventilati in riva al mare, piuttosto che a temperature molto più elevate rispetto all'abituale, sono tutte cose che possono contribuire a determinare una minore permanenza del film lacrimale, cioè dello strato di lacrime che normalmente bagnano la superficie oculare, e vengono eliminate prima, quindi noi non abbiamo un'adeguata... Ecco, lubrificazione, perché le lacrime lubrificano. Lubrificano e sono essenziali perché l'occhio stia bene, certo. Sia perché portano nutrienti alla cornea e ai tessuti oculari superficiali, sia perché fanno arrivare l'ossigeno, che è quello che serve poi per tutta una serie di funzioni, e in assenza di ossigeno è inevitabile che si abbiano delle manifestazioni di ipossia oculare, cioè di mancanza di una quantità adeguata di ossigeno. Siamo tornati insieme a noi il professor Bandello, direttore della clinica oculistica dell'Università Vita Salute, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Ci stiamo occupando dei nostri occhi e in particolare dei nostri occhi in estate. Professor Bandello, abbiamo detto che è importante proteggere i nostri occhi dalla radiazione solare. I danni possono essere nel breve, nell'immediato direi, e nel lungo periodo. Tra i fastidi che può dare la luce, sicuramente questa eccessiva... questo fastidio, no? Questo desiderio di chiudere più volte gli occhi, proprio quasi per umettare, per, no? Ripristinare un po' la circolazione, mi passi questo termine, delle lacrime, ma uno dei sintomi più descritti è sicuramente il rossore. Molti lo avvertono al termine di una giornata passata all'aria aperta, oppure anche un rossore che si manifesta nelle persone che ancora non sono andate in vacanza, o ancora un rossore da accusato dalla persona che porta lenti a contatto. Quindi è importante, le ho dato queste indicazioni perché, professore, immagino sia importante anche legare un po', no, la storia della persona al sintomo. Che dice senza lei? Dubbio, senza dubbio, sì. È fondamentale che il paziente presti attenzione e cerchi di limitare l'azione di questi agenti irritanti. E ripetiamo, per chi non fosse in ascolto precedentemente, che l'estate per tanti motivi è il periodo dell'anno in cui questi agenti irritanti sono più frequentemente contemporaneamente presenti. Facciamo riferimento all'ambiente condizionato, quindi un ambiente in cui la secchezza è molto aumentata e c'è minore umidità, facciamo riferimento al caldo, facciamo riferimento al vento, alla vita all'aria aperta, sono tutte situazioni in cui si sovrappongono agenti capaci di irritare la superficie esposta dell'occhio e quindi causare i fenomeni di arrossamento di cui parlavamo. Non stiamo ancora parlando di due che poi sono forse tra tutti i maggiori agenti irritanti, che sono l'acqua delle piscine e ahimè anche l'acqua del mare. L'acqua del mare sappiamo che recentemente è stato dimostrato che è particolarmente pulita nelle nostre più importanti località di villeggiatura. Sì, il ministro Fazio proprio ha presentato un rapporto annuale sulle acque di balneazione, perfetto. Un portale web sulla loro qualità. Ed è, questo è sicuramente una cosa magnifica da ricordare per chi si appresta ad andare in vacanza, ma bisogna anche però riconoscere che ci sono delle situazioni, dei momenti della giornata in cui migliaia di persone si bagnano in spazi relativamente ridotti, e questo inevitabilmente è causa di un inquinamento delle acque temporaneo ma esistente, che può essere concausa per dei problemi oculari. Lo stesso discorso vale per le piscine, che anche quando ben gestite dal punto di vista della gestione dell'acqua possono contenere degli agenti irritanti, vedi il cloro, che è utilissimo per rendere l'acqua meno inquinata, però è anche vero che di per sé è un agente irritante. Quindi, professore, ma io metto gli occhialini, mi aiutano? Questo sicuramente aiuta, proteggere gli occhi aiuta. E se ho questo fastidio dopo il bagno in mare, in piscina, cosa? Mi metto le lacrime artificiali, uso un collirio, faccio finta di niente, resisto, metto gli occhiali da sole, che faccio? Allora, anzitutto le lacrime artificiali possono essere considerate il rimedio a cui si può fare ricorso senza temere che succeda mai nulla di male. E sicuramente tra tutti i colliri è quello che il paziente può utilizzare senza temere di dover per forza avere il conforto del medico. Poi sicuramente, se mettendo le lacrime artificiali il problema non si risolve, vale la pena di sentire il parere dell'oculista. Certo. Ma in assenza dell'oculista o nell'immediato, quando il problema non si è ancora manifestato come un problema importante, vale sicuramente la pena di fare ricorso alle lacrime artificiali. Male non fanno mai. Professor Bandello, c'è invece un caso in cui è opportuno non così provare a trovare delle soluzioni da sé, e ci sono delle categorie di persone in modo particolare, vogliamo ricordarle, sono i portatori di lenti a contatto. Tante volte per comodità, specie in estate, usano le lenti, hanno un piccolo fastidio, però gli impegni di vacanza incalzano e uno resiste. Ecco, questo è un errore che si può pagare caro. Professor Bandello, me lo spieghi lei? La raccomandazione, ecco, se dobbiamo alla fine di questa chiacchierata poi lasciare dei messaggi chiari per chi ci ascolta, uno è sicuramente questo: chiunque sia un portatore di lenti a contatto e si ritrovi ad avere dei disturbi, dolore, sensazione di corpo estraneo, un improvviso arrossamento dell'occhio accompagnato eventualmente da questi sintomi, deve sapere che la prima norma da rispettare è la rimozione delle lenti a contatto. Questo può dar fastidio, può essere fonte di disagio, perché semmai si era programmato di non dover portare gli occhiali, ma è meglio rimettere gli occhiali piuttosto che rischiare che una prolungata applicazione di lenti a contatto in una situazione già danneggiata arrivi poi a conseguenze estreme, con delle infezioni oculari più importanti, delle infiammazioni gravi, certo, che poi può essere difficile riuscire a risolvere, o perlomeno se anche le si risolve comportano poi lunghi periodi di terapia ed eventualmente anche degli esiti cicatriziali che possono essere anche invalidanti. Quindi ricordatevi, per chi porta le lenti a contatto, quando ci sono disturbi, toglierle ed attendere il parere dell'oculista prima di rimetterle. E in questa puntata dedicata alla protezione vogliamo occuparci anche della protezione di quella zona delicatissima, la zona perioculare. Noi la affidiamo al professor Leonardo Celleno, dermatologo dell'ospedale Columbus dell'Università Cattolica di Roma, che è venuto di nuovo a trovarci. Professor Celleno, buongiorno. Buongiorno. Professore, io metterei due parole chiave: protezione e prevenzione. Vanno sempre bene, non si sbaglia, perché questa zona è particolarmente sensibile, si arrossa facilmente, poi si segna ancora più facilmente, e considererei anche un elemento in più: a volte i prodotti che usiamo per il contorno occhi non sono ben tollerati dai nostri occhi, forse perché noi non usiamo prodotti specifici o insomma facciamo dei pasticci, e allora poi mettiamo la crema, l'occhio lacrima, poi si arrossa e insomma è un gran pasticcio. Professore, allora, qualche consiglio semplice e diretto per la zona perioculare, per proteggere e prevenire anche le famose zampe? Beh, innanzitutto siamo in estate, quindi attenzione, non usiamo prodotti non adatti poi ad essere messi sotto il sole. La prevenzione comincia con un'igiene accurata ma dedicata della regione perioculare, anche per la rimozione del trucco, che deve essere fatta con prodotti specifici, ma deve essere poi seguita da risciacquo e dall'applicazione, se si vuole, di prodotti per la prevenzione dell'invecchiamento, come i cosiddetti contorno occhi. Non mettiamo però creme qualunque intorno agli occhi, perché la regione perioculare drena, ovvero sia raccoglie il sudore, i liquidi che abbiamo, e qualche volta può succedere che queste microscopiche goccettine di prodotto che abbiamo messo vadano a finire nell'occhio. Questo potrà essere anche molto pericoloso, perché potrebbe dare un'irritazione e perfino delle piccole ulcere corneali. Quindi la prevenzione deve essere accurata, nel senso dell'igiene, deve essere ripetuta durante il giorno per rimuovere il sudore in eccesso o le creme che abbiamo usato sotto il sole, per affidarci poi alla sera a un'azione idratante lenitiva di rinfresco, diciamo così, di tutta l'area perioculare. Professore, grazie. Ma si può, ci scrive subito Carla, esporsi truccate al sole? Perché io non posso rinunciare all'eyeliner e al mascara. Si può esporre con questi prodotti, non si corrono rischi particolari. Attenzione, il grande sudore, l'acqua, non credo che diano poi degli effetti splendidi, ma parte l'estetica, il pericolo sta nel fatto che se queste sostanze si dovessero sciogliere, potrebbero davvero entrare in contatto con l'occhio e questo va evitato. Grazie professor Celleno per essere stato con noi. Buona grazie giornata. Buongiorno. Noi andiamo a Milano, anzi restiamo a Milano, abbiamo Marinella, tra poco parleremo anche dei danni a lungo periodo della radiazioni solari, ma intanto Marinella, stiamo nel qui e ora. Buongiorno. Buongiorno. È una domanda per il professore, ma comunque sempre complimenti per la sua trasmissione. Grazie Marinella. Mi succede questo la sera quando leggo a letto prima di addormentarmi qualche pagina o 10 pagine o 20 che siano. L'occhio sinistro chiudendosi, insomma, come dire, si incomincia ad acclimatare al sonno. Nel riaprirlo mi dà un disturbo, come posso dire, come se fosse infastidito ad essere riaperto. Sì. Cosa che non mi succede mai comunque durante il giorno e non succede mai all'occhio destro. Volevo capire se può essere appunto una mancanza di idratazione o e altro. Che cosa posso certo. fare. Professor Bandella, l'occhio di Marinella dice: Marinella, è l'ora di andare a dormire. Marinella cerca di continuare a leggere, però che cosa può essere questo disturbo? Potrebbe essere, come dice giustamente la signora, come ha ipotizzato, un difetto di lacrimazione, una ipolacrimia. Ipolacrimia che in alcuni casi, quando poi si associa con degli altri tipi di alterazioni, può portare a un disturbo molto più forte di quello descritto dalla signora, che si verifica all'apertura degli occhi al mattino o all'apertura degli occhi durante la notte, e cioè aprendo gli occhi a causa di un'aderenza anomala che si è creata tra palpebre e epitelio corneale, l'apertura degli occhi determina la rottura dell'epitelio corneale, una sintomatologia dolorosa improvvisa e fortissima che è dovuta proprio a una anomala adesione creatasi tra superficie posteriore delle palpebre e superficie anteriore dell'occhio. Proprio perché non ci sono più le lacrime che fanno un po' da barriera, no? Non c'è un'adeguata idratazione della cornea. Qualcosa di simile forse è in atto quando la signora descrive i disturbi che ha descritto, forse un primo tentativo di risolvere il problema prima di andare a sentire l'opinione di un oculista, che comunque le raccomanderei di sentire, il primo rimedio potrebbe essere proprio quello di instillare le lacrime artificiali, eventualmente proprio prima di andare a dormire e quindi prima di affrontare quelle 20 pagine di cui la signora parlava, così da verificare se in questo modo il problema si risolve. Andiamo tranquilli. Siamo già andati a Dama, sì. Professor Bandello, quanti occhi di cui occuparsi oggi all'824-0024 Essere Benessere, oggi parla di protezione oculare. Francesco, della provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno professore. Ci racconti? Sente? Sì, la sento bene Francesco. C'è un problema, mio figlio si è strappato, c'ha l'occhio secco, questa è la premessa. Sì. Si è strappato invece di togliere con cautela la lente a contatto che metteva, insomma, o per giocare a calcetto o a, sono quelle giornaliere o settimanali, non so, il professore lo sa. È successo che ha avuto dei problemi all'occhio, delle cicatrici. Sì. Però i medici non sono concordi, c'è chi dice, oculisti, che si possono queste cicatrici togliere con il laser, altri dicono di no. Non so, hanno prescritto del gel che lui mette e trova giovamento, per cui la lente a contatto ormai non le mette più da parte. Certo. Francesco, chiediamo al professor Bandello se con questi elementi, naturalmente non, i nostri esperti non possono mai fare diagnosi telefoniche, ma dare delle indicazioni, suggerimenti. Professor Bandello. Ma la storia che sta descrivendo è una storia abbastanza caratteristica, significativa di un problema corneale che è esitato in una cicatrice. Normalmente la cornea, come giusto per dare delle informazioni che siano poi utili a tutti, è un tessuto assolutamente trasparente, perfettamente trasparente. Quando va incontro a delle malattie di relativa importanza, può subire un processo di opacizzazione. La cornea opaca ci costringe a guardare attraverso un vetro smerigliato, quindi la qualità della nostra visione peggiora. Sì. Da ciò deriva l'esigenza di cercare di eliminare l'opacità che si è determinata quale conseguenza del processo cicatriziale e a questo scopo possono essere utilizzate differenti metodologie, una delle quali è quella che riferiva il papà del paziente, cioè un trattamento laser, con un laser particolare che è il laser ad eccimeri, che ha la caratteristica di volatilizzare il tessuto, cioè se utilizzato sulla superficie della cornea riesce a fare una specie di piallatura della cornea di una profondità sufficiente a eliminare la parte opaca e quindi in questo modo ricreare una trasparenza. Adesso dire se sia questa la soluzione ideale per non il caso di cui parliamo o meno, non sono in grado di dire, una visita, però giusto perché si possa capire qual è il problema, è verosimile che sia così, perché potrebbe essere una cosa abbastanza credibile, insomma realistico che sia così. Senta, professor Bandello, prima di andare a scegliere gli occhiali da sole, adesso noi stiamo cercando di capire anche se c'è un'indagine adesso proprio fatta dall'Istituto Piepoli che dice che un italiano su due non porta ancora gli occhiali da sole, insomma, però io vedo più gente di un tempo indossare gli occhiali. Anche perché sono proprio anche acquisiti come un capo d'abbigliamento. Bravo, quasi, una no? cosa, sono un accessorio ormai di moda e quant'altro. Aiuta, diciamo. Ecco, e ci hanno aiutato, ma un tempo, come lei diceva anche in apertura, io sono di quella generazione, insomma si andava così. I danni delle radiazioni del solari si pagano anche nel lungo periodo, senza fare terrorismo, perché insomma quel che è fatto, però è vero che c'è un aumento dei casi di cataratte o di degenerazione maculare legata all'età e molti la legano appunto al fatto che queste persone, tante persone, non si sono adeguatamente protette quando era il tempo? Sì, diciamo, lei adesso ha introdotto un argomento che ed è il modo giusto di introdurlo, cioè le radiazioni solari fanno del male nell'immediato ed è quello di cui abbiamo parlato fino ad ora, quei piccoli problemi che possono insorgere, quale conseguenza immediata. Ma le cose più importanti, negative, le radiazioni solari le fanno nel lungo termine, cioè quando c'è un effetto additivo negli anni, nei decenni, che in persone predisposte, e questo in persone predisposte va sottolineato tre volte, in persone predisposte possono essere una concausa di problemi maggiori. Certo, perché sono malattie multifattoriali, le chiamate così, vero? Perfetto, perché stiamo parlando, per esempio, per quanto riguarda la degenerazione maculare legata all'età, di una tipica malattia multifattoriale in cui c'è una predisposizione genetica come base di partenza. E poi se a questa predisposizione genetica si sommano degli altri elementi nell'arco di decenni, tra cui le radiazioni solari, e allora può succedere di sviluppare la malattia vera e propria. Anni fa era stato fatto uno studio a testimonianza di quello che sto dicendo, in Spagna, in Portogallo, in cui era stato dimostrato che la frequenza della degenerazione maculare legata all'età era maggiore nei pescatori e negli agricoltori rispetto a persone che nella vita avevano fatto tutt'altro, semmai un lavoro di ufficio, e tra le giustificazioni che si portavano per giustificare questa diversa distribuzione della malattia c'era proprio l'esposizione alle radiazioni solari, che sicuramente è una concausa importante, per cui oggi, e questo è giusto, fa parte, diciamo, del sapere comune che è giusto proteggere gli occhi, soprattutto da parte di quelle persone che per motivi professionali sono esposti alle radiazioni ultrasolari per tante ore al giorno nella loro vita. Insomma, i rischi ci sono, però possiamo ridurli sensibilmente con la giusta protezione. In linea con noi per aiutarci a scegliere l'occhiale giusto abbiamo la professoressa Rossella Fonte, ottico-optometrista e docente di ottica della contattologia all'Università Bicocca di Milano. Buongiorno professoressa. Sì, buongiorno a lei, ai suoi ospiti e agli ascoltatori di Radio 24. Allora, noi abbiamo veramente due minuti in cui dobbiamo cercare di dare tutte le indicazioni del caso. Innanzitutto io chiedo a lei, che è la persona più indicata, di dare la risposta giusta al nostro quiz. Quali sono i gradi di potere filtrante delle lenti? Allora, il grado di potere filtrante delle lenti, se diamo subito la risposta ai nostri ascoltatori, sono da 0 a 4. Ecco, allora io do subito, perché poi scegliamo le lenti con lei, il nome dell'ascoltatore che per primo ha mandato un'email a esserebenessere@radio24.it con la risposta giusta, che è Paolo di Vicenza. E Paolo di Vicenza ha il nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Book Shop, alla sua velocità, alla velocità di Paolo, lui potrà ricevere a casa il libro dal titolo Acciaio di Silvia Vallone. È un libro molto bello e arriverà a casa proprio del nostro ascoltatore che ha dato una risposta giusta al nostro quiz. In collaborazione con IBS.it. Allora, professoressa Fonte, iniziamo a dare un ABC dell'acquisto sicuro. Che cosa dobbiamo guardare? I marchietti. Benissimo. Allora, guardi, in Europa l'occhiale da sole è considerato un cosiddetto DPI, cioè un dispositivo di protezione individuale. Sì. E come tale, quindi, la sua fabbricazione rispetta una serie di criteri fondamentali. Mm. Quando l'occhiale supera i test di conformità alle delle normative comunitarie, riceve la marcatura CE. Ecco, questa è già una garanzia. Perfetto. Che questa marcatura deve essere, tra l'altro, proprio come come enuncia la norma, indelebile, visibile e leggibile. E le caratteristiche, alcune le avete indicate in maniera estremamente corretta prima, sono la categoria dei filtri di cui abbiamo parlato, quindi il filtro, la capacità filtrante, la quantità di luce che arriva all'occhio, che quindi può essere modulata attraverso le lenti filtranti che in base alle esigenze hanno diversi gradi di trasmissibilità e quindi d'uso. Altra cosa è il filtro UV, che quindi ha la capacità di schermare le radiazioni, prevalentemente le UVA, che poi rappresentano il 94% delle radiazioni che ci arrivano, passano lo strato dell'ozono, e quando l'utente vede indicata l'etichetta 100% UV, significa che l'occhiale ha una capacità schermante dei raggi ultravioletti fino ai 400 nanometri. Andiamo. Allora, grazie alla professoressa Rossella Fonte per queste indicazioni, grazie al nostro professor Bandello che ci ha accompagnato per tutta la trasmissione, grazie professore. Grazie a voi. Buona giornata a voi, noi ci sentiamo domani, ma intanto vi rimando a una campagna molto bella, testimonial Giuliano Gemma che abbiamo intervistato. Andate sul sito Un Minuto che Vale Una Vita. Vorrei che voi la sentiste, soprattutto se siete uomini di età compresa tra i 65 e gli 80 anni o ne conoscete uno. Essere e benessere.